siamo, come dire, siamo molto felici, molto contenti e anche molto stanchi, però siamo, aspettiamo di vedere queste belle piazze belle affollate. Ecco, questi due appuntamenti come saranno organizzati rispetto agli orari e alle proposte? Noi passiamo dal 22 al 23 qui alla centrale alle 17.30 con la Perossa in Favola, proseguiamo con la Perossa al Museo alle 17.45, proseguiamo ancora alle 19.15 con la Perossa Esplora con i Walkabout insieme a l'associazione Urban Experience guidata da Carlo Infante. Continuiamo alle 20.30 con la Perossa in Scena, appunto con la parte più dedicata al teatro, e alle 21.30 la Perossa racconta con il documentario e 22 la Perossa suona. Un appuntamento imperdibile, tutto il pomeriggio con noi fino a sera tardi. E per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Certamente, la pagina Facebook della Perossa, la pagina Facebook dell'archivio divisivo del Movimento Operaio Democratico, il nostro sito www.amos.it. Ricordiamo allora la Perossa a Roma in due piazze dal 22 luglio al 2 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Aurora Palandrani dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, perché è proprio la Mod che organizza. Aurora, un abbraccio, un in bocca al lupo, grazie, e a risentirci presto. Grazie mille, un saluto. Ciao. Ciao.